Loro lo sentirono. Loro le sentirono due cuori in un anello di sangue. Due cuori strappati senza lacrimare. Loro lo sapevano, nessun altro. Generare un link di sostentamento e polare. La passione trabocca. Erano un uomo e donna nel loro inchiostro. Era un uomo e donna nel suo sangue. La notte era umida e la sensazione trabocca. Di stanchezza vacillavano, di piacere batteva ancora. Il tempo in cui erano stati insieme, alcuni già una vita, alcuni altri una notte di passione. Loro lo sentirono. Due cuori in un anello di sangue. Il suo istinto, il suo sentimento lo annunziò. I loro occhi si incontrarono, i loro colori di essivi. Quelli che si sono uniti per la vita e il loro sangue come testimone. Quelli che si sono uniti a una notte e il piacere e i sensi per lo stesso. Due cuori strappati, senza lacrimare. Loro lo sapevano, nessun altro. La passione trabocca. Erano un uomo e donna nel loro incrostro. Erano un uomo e donna nel suo sangue. Cesare. Le Cavalier.